Yes people, come tutti i mercoledì, questo è Port Royal in diretta dalle 21 alle 23 sulle frequenze di Pirate Radio, Fire Upon Babylon in Session. Cominciamo questa puntata ricordando, anzi festeggiando il compleanno che è stato appunto un paio di giorni fa di Carole Thompson, detta anche la regina del lovers rock inglese, con singoli come I'm So Sorry. Ha cominciato la sua carriera sul finire degli anni 70, andando anche a vincere nei primi anni 80 due Reggae Awards nel 1982 come Best Female Performance e Best Song con Hopeless in Love. Nel 1983 vince ancora come Best Performer e comincia a registrare duetti con Sugar Minot. E sempre più di frequente si avvicina alle classifiche non solo specializzate nella musica reggae. Alla metà degli anni 80 infatti, e poi negli anni 90 collabora con varie band, scalando più di una volta, entrando più di una volta in classifica tra i dischi pop UK e non solo, quindi reggae, come per esempio nel 1986 con Operator, entrato nella classifica al numero 86 dei singoli pop UK. Addirittura arriva prima nella UK Single Chart con il pezzo che andremo poi a sentire tra poco, I'm Still Waiting, registrato con gli Aswad dei Courtney Pine. È proprio il primo disco che andremo a sentire per festeggiare Carole Thompson, che ricordiamo ha lavorato anche con Michael Jackson, Stevie Wonder, Natalie Cole, Pet Shop Boys, Boy George, Maxi Priest, Sting, e davvero tante, tante le collaborazioni di Carole Thompson. Ci andiamo a fare questa combo. Partiamo con I'm Still Waiting, Carole Thompson con Aswad e Courtney Pine, e poi andiamo a sentire Dance With Me, che è una delle ultime produzioni uscita lo scorso anno con l'etichetta, con la produzione del Sally Brown e della famiglia di Caribbean Uptempo. Quindi I'm Still Waiting per cominciare e Dance With Me. Carole Thompson, questo è Port Royal. just got to live it. Follow your heart, you got to believe it. Cause you don't know what tomorrow will bring. No, no. So dry your tears, don't sit down and worry. Cause everybody has their own story. Just take my hand and dance with me. Oh, yeah. Oh, oh, come on and dance. Invece oggi è il compleanno in cielo di uno dei più grandi produttori della storia della musica reggae. Parliamo ovviamente di Sir Coxon Dodd, solito suonare ai suoi clienti i dischi rhythm and blues americani nel 54. Quando torna in Giamaica costruisce il suo sound system, Downbeat, con i dischi che ha riportato dalla sua permanenza negli Stati Uniti tra New Orleans e Miami. Dodd, all'inizio appena tornato in Giamaica, quindi tra gli anni 50 e 60, fonda addirittura 5 sound system suonando ogni notte e assume gente come Lee Scratch Perry, piuttosto che poi più avanti U-Roy e Prince Buster. Nel 59 fonda un'azienda discografica chiamata World Disc, nel 63 apre lo studio di registrazione Studio One a Brentford Road, primo studio di registrazione nero in Giamaica. A Coxon Dodd si deve anche il debutto, la scoperta di Bob Marley, cantante dei Wailing Wailers, che scoprì una domenica sera durante le sue audizioni che faceva alla ricerca di nuovi talenti. Trovò appunto un giovanissimo Bob Marley, cantante dei Wailing Wailers, al quale fece un gruppo, pensate, un contratto esclusivo quinquennale, 20 sterline per ogni canzone registrata. Nella fine degli anni 60 e gli anni 70 il suono della Studio One era il sinonimo di Ska e Rocksteady, e appunto Dodd in questo periodo ha lavorato con i migliori talenti giamaicani: Barney Spear, Ras Michael, D-Roy Wilson, Ora Sandy, Sugar Minot, giusto per dirne qualcuno. Ci ha lasciato purtroppo poi nel 2004. Andiamo a fare un trittico in onore di Coxon Dodd. Cominciamo con My Conversations, Lynn Smith and The Unique. Poi andiamo su Anthony, Rocky Ellis, I'm the Ruler. E per finire Jackie Me Too, Penny Whaley. Questo è Port Royal. Chum! Conversation, conversation. need, you've got me thinking, you've got me thinking. There were times I thought that I was sinking, I was sinking, but I'll always want to be in that position where I can see more clearly, where I can see more clearly. Thank you. Ciao a tutti amici, sono Bunna di Africa Unite e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Pod Royal e Fire Upon Babylon. Restate sintonizzati, seguite programmi come questo, supportate la reggae music. Yes, I! Bunna Senso! Wicked! Intervistare l'artista salentino Mattune in occasione del suo nuovo EP Rider, un lavoro in cui l'artista salentino incontra le sonorità elettroniche di Fabluz. Come nasce quindi questa collaborazione tra te e Fabluz? Allora Otello, la collaborazione con Fabluz innanzitutto è fondata sull'amicizia, perché è un vecchio amico del mio paese di origine, Matino. Quindi tornato a Matino dopo, cioè durante la pandemia nel 2019, e abbiamo deciso di fare una collaborazione insieme. Già da tempo avevamo in mente questa cosa, però non c'era stato mai modo di incastrarci e di provare a fare qualcosa. Diciamo che per certi versi la pandemia ci ha aiutato a trovare la concentrazione, l'energia, più che altro per stare calmi e riflettere su quello che volevamo fare. E da qui sono nate una serie di tracce. Da queste abbiamo fatto una cernita e abbiamo deciso di pubblicarle prendendo forma con il titolo Rider. Quali sono state le tue fonti di ispirazione per i testi e per la musica di questo tuo nuovo EP Rider? Allora, la fonte di ispirazione di questo progetto è stata innanzitutto la grime londinese, la grime inglese. Nel periodo in cui ci siamo trovati abbiamo ascoltato molto molto molta grime, che mi rappresentava pure dal fatto che, come il ragamuffin è uno stile di strada, no? Che viene dai quartieri popolari, quartieri diciamo meno fortunati. Innanzitutto è fondata sull'amicizia, perché è un vecchio amico del mio paese di origine, Matino. Quindi tornato a Matino dopo, cioè durante la pandemia nel 2019, e abbiamo deciso di fare una collaborazione insieme. Già da tempo avevamo in mente questa cosa, però non c'era stato mai modo di incastrarci e di provare a fare qualcosa. Diciamo che per certi versi la pandemia ci ha aiutato a trovare la concentrazione, l'energia, più che altro per stare calmi e riflettere su quello che volevamo fare. E da qui sono nate una serie di tracce. Da queste abbiamo fatto una cernita e abbiamo deciso di pubblicarle prendendo forma con il titolo Rider. Quali sono state le tue fonti di ispirazione per i testi e per la musica di questo tuo nuovo EP Rider? Allora, la fonte di ispirazione di questo progetto è stata innanzitutto la grime londinese, la grime inglese. Nel periodo in cui ci siamo trovati abbiamo ascoltato molto molto molta grime, che mi rappresentava pure dal fatto che, come il ragamuffin è uno stile di strada, no? Che viene dai quartieri popolari, quartieri diciamo meno fortunati. In quel periodo ci siamo visti pure la serie Top Boy ci ha fatto entrare ancora di più nel mood inglese. Quindi abbiamo provato a mischiare il genere grime con la dancehall, con l'elettronica, perché magari prima non vi ho detto, ma Fabluz è un DJ che suona nei club, propone musica elettronica. Allora abbiamo provato a mischiare questi suoni. Io ho iniziato a cantarci sopra e da qui ha iniziato a prendere forma il progetto. Tra le tracce che compongono l'EP ce n'è qualcuna a cui sei più o comunque particolarmente legato? Allora, le tracce a cui sono più legato. Vabbè, innanzitutto parto da tutti gli stili che vuoi, acronimo TGSCV, perché mi ricordo proprio durante il periodo della pandemia che avevamo voglia di divertirci, fare festa e quindi più che altro stavamo provando a fare queste contaminazioni tra di noi. Allora, proprio a me è venuto in mente il ritornello. E ho iniziato a cantare tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. E mi ricordo pure benissimamente che in quella giornata io mi ero pure addormentato sul divano. Fabruzio si era messo lì col computer a produrre, a fare questa base. Mi sono svegliato, me l'ha fatto sentire, di getto mi è venuto subito questo ritornello qui. E da lì abbiamo iniziato a pensare appunto a divertirci all'estate, a fare appunto festa, organizzare qualche evento, qualche cosa. E da lì appunto è nata questa traccia. L'altra traccia a cui sono legato molto è Intro, perché è quella che ho scritto più di getto, pensando soprattutto alla comitiva, all'energia che si era ricreata tornando al mio paese, riacchiappando tutti gli amici di una vita. Infatti, ci sono citazioni pure in questa traccia, che cito la zona Bosco, che sarebbe il punto di ritrovo serale, e dal quale nasce pure la mia prima crew, che si chiama appunto Woodzone Crew, che prende il nome appunto da questa zona del mio paese. E più che altro l'ho finita di scrivere durante le pause pranzo quando stavo al lavoro. Infatti il pezzo pure inizia con "Rifaccio queste mattine sempre in ritardo Golf 40". L'altra traccia invece a cui sono legato è proprio Rider, perché da qui abbiamo dato il titolo al disco, è un pezzo un pochino più introspettivo, di riflessione esistenziale. Descrivo appunto le emozioni, lo stato d'animo che avevo in quel momento, che magari stavi un pochino più giù di morale e pensavi: ma dove sono finito? Ma sono felice davvero? Da qui è nato Rider. Quindi posso dire che queste tre sono le tracce a cui sono più legato. E allora andiamo a sentirci queste tre tracce scelte da Mattune per presentarci il suo nuovo EP Rider. Partiamo da tutti gli stili che vuoi e dopo andremo a sentire anche una versione speciale fatta tutta solo per noi. Tutti gli stili che vuoi, poi intro e per chiudere Rider, la title track di questo nuovo EP di Mattune. Tune in! Ci pensiamo noi, tutti gli stili che vuoi, porta tutti gli amici che vuoi, tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi, porta le tue amiche ma non portare il tuo boy, tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi, tutti gli stili che vuoi, porta tutti gli amici che vuoi, tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi, porta le tue amiche ma non portare il tuo boy. Divento accecato quando sono sopra un palco, la botta mi uccide e non capisco proprio un cazzo, il cervello esplode come con 6 litri d'alcol, prendo queste note al volo come fosse un falco. Io ne voglio ancora de sta shit, non mi sazio. Vieni nella base, ti mostriamo il nostro shuttle. Senza aver paura, siamo pronti per lo spazio. Viaggi interstellari con i miei soci all'assalto. Ben, ben, sparinato, ben, ben, porta le tue amiche. Gang bang, gang bang. Oh baby, siamo open mind, siamo open space. In giro devastato fin dai tempi del MySpace. Alza un po' il livello, solleviamo questa scena. Nasce sta new wave, frutto della quarantena. Boom boom, la dancehall trema. Splaniamo già tipo e a pranzo, colazione e cena. Bang bang, mastico gli stili bang bang. Questa era Tom Pen. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Tutti gli stili che vuoi, porta tutti gli amici che vuoi. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Porta le tue amiche, ma non porta le tue poi. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Tutti gli stili che vuoi, porta tutti gli amici che vuoi. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Le tue amiche ma non portare il tuo boy. Ma si vede bene caro amico che sei fake. La carta del papino serve per le nuove Nike. Lo sappiamo tutti che ti vendi per il like. Le Nike, i like, le Nike, i like. Espongo i concetti nella maniera più cool. Rilanci con il tris ma io nascondo il full. Ci rimani fissa fissa fissa per sto groove. We're full of groove, we're full of groove. Boom boom, chica chica move move. Ancora in fissa soul group. Kama Sutra Kung Fu, Kama Sutra Kung Fu. Boom boom, chica chica move moon. Ancora in fissa soul group. Kama Sutra Kung Fu, Kama Sutra Kung Fu. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Tutti gli stili che vuoi, porta tutti gli amici che vuoi. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Porta le tue amiche ma non porta le tue poi. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Tutti gli stili che vuoi, porta tutti gli amici che vuoi. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Porta le tue amiche ma non porta le tue poi. Non mi guardare, oggi ho la faccia distrutta. Se me la passi attento che la fumo tutta. Hey, hey, lasciami perdere. Lasciami perdere. Lasciami perdere. In piazza dicono che ormai siamo alla frutta. Se non stai attento guarda che il capo ti scruta. Hey, hey, lasciami perdere. Lasciami perdere. Rifaccio queste mattine sempre in ritardo col V40. Innesto voglia di evadere con i doveri da fare. Me ne innaffio questa passione che per me è come la miglior pianta. Non senti quando magatto lo poco buono come di vampa. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Day by day me lo ripeto per giorni buoni più positivi. Per i malati di sto settore i sempre ci tengo vivi. I frutti che poi raccogli dipendono sempre da come coltivi. In giro giù per il paese poche le pretese. Ogni mese il fegato paga le spese. Di se vite prese dalle attese non comprese nelle cese. L'uscia mi medice campari ma impari dagli errori vari sempre uguali. Gli anni passano su sti binari ma gli affari non si incastrano mai così tempi mari. Insieme a Fabruz innesco la bomba esplosiva con il supporto sempre acceso della comitiva. A noi sta merda ci fa bene l'anima respira. Attento che ti arriva in faccia ho già preso la mira. Zona bosco pericolosa, ogni neurone che passa da qui non si riposa. Tutti indecisi non si sa come andrà questa vita. Mille pensieri ma lo primo ed è sempre la figlia. Non mi guardare oggi ho la faccia distrutta. Lasciami perdere, lasciami perdere. Se me la passi attento che la fumo tutta. Lasciami perdere, lasciami perdere. M.A.T.T.1 Fabluz. Lasciami perdere, lasciami perdere. Mi sveglio spesso stesso con la coscia che non so gestire, senza un problema reale a cui posso attribuire. Forse sta vita piena di disagi da smaltire, ormai ho tante ferite che non riesco più a cucire. Che c'hai da dire? Gli sbagli sai li facciamo tutti, per superarli mi dico sì ne città e ne furti. Seguire regole mi mandano in tilt il cervello, per stare bene sfogo facendo portello. Rider, corri non fermarti tra gli affari delle faide, per ogni giocata mischia bene le tue carte, anche quando vincere è difficile, sempre a testa alta non fermarti mai. Rider, corri non fermarti tra gli affari delle faide, per ogni giocata mischia bene le tue carte, anche quando vincere è difficile, sempre a testa alta non fermarti mai. Sei soddisfatto? Dove sei finito? Che vita fai? Ti sei sposato e dei figli? Chissà se mai li avrai. Vivo ogni giorno come viene tra vento e marea, e spesso per non sentire me ne vado giù in apnea. Questi vampiri vogliono il mio sangue per asciugarmi, ma sono un rider veloce, lo so di chi fidarmi. Mi faccio un giro, trovo qualcosa di interessante, da sti soggetti meglio stare un po' distante. Rider, corri non fermarti tra gli affari delle faide, per ogni giocata mischia bene le tue carte, anche quando vincere è difficile, sempre a testa alta non fermarti mai. Rider, corri non fermarti tra gli affari delle faide, per ogni giocata mischia bene le tue carte, anche quando vincere è difficile, sempre a testa alta non fermarti mai. Sempre a testa alta non fermarti mai. Rider, corri non fermarti tra gli affari delle faide, per ogni giocata mischia bene le tue carte, anche quando vincere è difficile, sempre a testa alta non fermarti mai. Rider, corri non fermarti tra gli affari delle faide, per ogni giocata mischia bene le tue carte, anche quando vincere è difficile, sempre a testa alta non fermarti mai. Sempre a testa alta non fermarti mai. Sempre a testa alta non fermarti mai. Nella tua già lunga carriera, insomma, ci conosciamo da un po' d'anni, hai, diciamo, esplorato vari generi, varie sonorità. Quali tra, anche in questo ultimo EP, sicuramente un po' lontano da reggae a cui siamo abituati, in quale tra i vari generi che hai avuto l'opportunità di bazzicare, in quali di questi ti trovi più a tuo agio? Allora, il genere dove mi trovo meglio è il rabadab ragamuffin. Spesso pure a casa, quando torno da lavoro, se mi metto una strumentale del genere di getto mi vengono tante liriche, riesco pure a improvvisare un testo. Ed è pure il genere da cui sono partito. E quindi posso dire che appunto il ragamuffin e la dancehall sono quelli che più mi rappresentano e sui quali mi trovo meglio anche a scrivere un testo. Limitazioni permettendo e facendo sempre i debiti scongiuri, quali sono i progetti per il futuro? Allora, limitazioni permettendo, appunto, il futuro spero che mi riserverà tanti live, sia in Salento che in altri posti italiani, ma mi piacerebbe tanto tornare a Roma, perché a Roma sono molto legato, infatti noi ci conosciamo bene con Faia Pombabile, una di tutte le serate che abbiamo fatto anche insieme a Sound Unity. E quindi spero che mi riserverà molti live il futuro. E poi continuo a pensare sempre a nuova musica. Già c'ho nel cassetto altre tracce che sto studiando e sto pensando di pubblicare. E spero anche di avere le energie per fare un mio disco, il mio secondo disco dopo Strade di Paese. Quindi, limitazioni permettendo, spero di avere la forza di andare sempre avanti e proporre nuova musica. Sopra un palco, la fonta mi uccide, non capisco proprio un cazzo. Il cervello esplode come con 6 litri d'alcol. Prendo queste note al volo come fossi un falco. Io ne voglio ancora, de sta shit non mi salzo. Vieni nella passione. se ti mostriamo il nostro shuttle. Con Faia Pon Babylon andiamo nello spazio. Viaggi interstellari con i miei soci all'assalto. Bam bam, spari in alto, bam bam, suona Faia Pon Babylon. Gang bang, gang bang, oh baby siamo open mind, siamo open space. In giro devastato fin dai tempi del MySpace. Alza un po' il livello, solleviamo questa scena. Nasce sta new wave, frutto della quarantena. Boom boom, la dancehall trema. Spraniamo già ti vuoi a pranzo, colazione e cena. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Suona Faia Pon Babylon per te gli amici tuoi. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Porta le tue amiche ma non portare il tuo boy. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Suona Faia Pon Babylon per te gli amici tuoi. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Porta le tue amiche ma non portare il tuo boy. Ma si vede bene, pussy sound che sei fake. Hai la carta del papino per comprare i tuoi da play. Lo sappiamo tutti che ti vendi per il live. Le Nike, il live, le Nike, il live. Sound Unity è ribelle nella maniera più cool. Sai, lanci con il Chris, ma io nascondo il full. Ci rimani fissa, fissa, fissa per sto groove. We are full of groove, we are full of groove. Boom, boom. Chica, chica, move, move. You know, ancora in fissa soul groove. Kama Sutra Kung Fu, Kama Sutra Kung Fu. Ancora boom, boom. Chica, chica, move, move. Ancora in fissa soul groove. Kama Sutra Kung Fu, Kama Sutra Kung Fu. Pensiamo noi, suona Faia Pon Babylon per te gli amici tuoi. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Porta le tue amiche ma non portare il tuo boy. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Suona Faia Pon Babylon per te gli amici tuoi. Tutti gli stili che vuoi, al party ci pensiamo noi. Porta le tue amiche ma non portare il tuo boy. Aha! Bombo class, tu fuoco brucia come lava. Non dormiva, si riposava. Non c'è né obblighi, compiti, covid. Già siamo dovunque a mezzo casi, condomini, così non ne può stutare. E io guaglio sin, giomana sesso, Port Royal, Pirate Radio, ogni mercoledì. On sai, big up on yourself. Yamu mo! Big up, Faia Pon Babylon, Otello, Smash, Hailaio, Osh. Come cane, direttamente dal litorale, Rough Note famiglia, e piglia fuoco sta dance. È tutto a posto, Faia Pon Babylon suona nel posto. È tutto a posto, Faia Pon Babylon in selecta rapida. Uccide Samboy a suon di ciul di lapida. Decapita, io di hard ormai ci abita. I lie upon the control, boom, occhi occhi capita. È una sconfitta matematica, non rosicare. Otello strilla come Rodica, non puoi sfidare. E tu fai ciacciazzi, puoi solo parlare. Ma il dubbio poi che qualcuno ti stia ascoltare. Se suona Osh, la massi urla, oh my gosh. È legalizzi come tempi Peter Tosh. Se pensi ancora di poter competere, arriva Smash e ti fa smettere di poterlo credere. È tutto a posto, Faia Pon Babylon suona nel posto. È tutto a posto, Faia, sei, è tutto a posto, Faia Pon Babylon suona nel posto. È tutto a posto, Faia, sei. And endorse the ghetto youth, they make them well bright. Africa shall rise. You know, sit say poor people, I'll get wise. Gonna not ramp with me again. King Selassie, I endorse the ghetto youth, they make them well bright. Jerusalem shall rise. You know, sit say judge of people, I'll get wise. Oh, the game up and down just like a yo-yo. Me smoke, me sense me. Yeah, I'm full jive show. Babylon speed up, so me have to move slow. Them say me lack a knowledge, but me lack them with the flow. Them teach me to say yes, and me still a say no. Them tell me fi stop, and me still go. Them tell me fi cut, and me still grow. Rastafari say so. Me a prince, jealousy, aye. And endorse the ghetto, you them make them well bright. Africa shall rise. You know, see, say poor people, I get twice. You know, no ramp with me again. King Selassie, I endorse the ghetto, you them make them well bright. Jerusalem shall rise. You know, see, say judge a people, I get twice. Wow. Wake the town and tell the people. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come, and I've penned my son. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. In you I can be strong. I look to you, I look to you. And when melodies are sung, in you I hear a song. I look to you. Hey, have to lose my breath, no more fighting left. Sinking to rise no more, searching for the open door. And every road that I've taken led to my regret. And I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you, I look to you. Ogni mercoledì dalle 21 alle 23 esce la selezione questa sera, e tra un po', dopo aver ascoltato l'intervista a Mattune, un'altra intervista a un big del nome e di fatto, intervista a Big Simon, sì sì, proprio lui, a Otta Cricca Reggae. I look to you, I look to you. And when all my flesh is gone, in you I hear a song. I look to you, I look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. Problemi di connessione, ma siamo sempre qui. Fai a Babylon. Smash la selezione. Port Royal. Dalle 21 alle 23. Ogni mercoledì. Singing songs of joy on this lovely day. Oh yeah. Poco dopo l'intervista a Mattune, un'intervista a un big della reggae music italiana, come il Mattune. She flirt bed with her boyfriend Virgin. Him have money and bling, so she go bed with him. Catch disease, now it started spreading. She start to seek penicillin, she's dying. Mercy please, for life she begging. When she hears her to the mark, she heading. Says she broke out at the age of 7, strip dancing before she reached 11. One man can't satisfy her, she needs more wood for the fire. Sex price getting higher, and more money she require. Oh, score and land she desire. So from the prostitution work she won't retire. Flames and fire, sun is cool, burn the place, sell her on the fire. Says she want a man to take her to the movies. Then another set to buy her pearls and rubies. Says she no care about cuts and bruises. That's just the way she chooses. Says she needs a man to bring her autumn, summer, winter, spring cash. Carnival splash and sing cash. New hairstyle, nails and blink cash. She's doing business, just bring cash. One man can't satisfy her, she needs more wood for the fire. The sex price getting higher, some more money she require. Oh, scoring land she desire. So from the prostitution work she won't retire. Flames and fire, burn the sex seller on the fire. She buy her bleaching cream, forget well bro. Plus her chicken feel so she well raw. Say she ready for try the L zone. Say she sexy pager and cell phone. She no know the much English nor the spelling so fine. All she know morning or evening selling time. See the now look what happened. Soft like a cotton, flesh start to rotten. One man can't satisfy her, she needs more food for the fire. The sex price getting higher, some more money she require. Oh, score and land she desire. So from the prostitution work she won't retire. Flames and fire, burn the flesh, sell her on the fire. Say she no care a good her boyfriend Virgin. Him have money and bling bling, so she go bed with him. Get disease, see the know it started spreading. She start to seek penicillin cause she's dying. Mercy please, for life she begging. When she hears up to the mark, she heading. Says she broke out at the age of 7. She knows she's strip dancing and she's just 11. One man can satisfy her, she needs. Manca poco alla prossima intervista. Next price getting higher. Big Simon, outta cricca. Reggae. So from the prostitution, what she won't retire. Flames and fire, burn the flesh, sell her on the fire. So one man can satisfy her, she needs more wood for the fire. The sex price getting higher, some more money she require. Oh, score and land she desire. So from the prostitution work she won't retire. Flames and fire, burn the place, sell her on the fire. She's a one man can't satisfy her, needs more wood for the fire. Yes, push him on the style. Sasso Sardinia Warrior. Pass me the blunt. I live in a the land of a the giants. Pass me the blunt. Special dedication the blunt per Tauli. Pass me the blunt. I live in a the land of the giants. Pass me the blunt. Pass me the blunt. Pass me the blunt. Yes, master. This is the land of the mystical and the majestic, where the blunt glowing blessed. Our dolly also domestic. This is Sardinia. Se sotto questa luna ti bacio ancora e suona il mare ai nostri piedi, perché tu non ti siedi davanti al paradiso per farne ancora una. La nebbia sale piano e piano tu mi sfiori, stanotte dormo fuori con te sotto le stelle, nel materasso fiori. La sabbia ancora calda, c'è tutta la mia banda. Pass me the blunt. I live in a land of the Jones. Pass me the blunt. Pass me the blunt. Pass me the blunt. Pass me the blunt. I live in a land of the Jones. Pass me the blunt. Pass me the blunt. Pass me the blunt. Yes, master. This is the land of the mystical and the majestic, where the plants glow in blessed, our dolly also domestic. This is Sardinia. Port Royal dalle 21 alle 23. Tra poco nuova intervista. Sisters, don't come to Jaja, yeah. Lift up your hands and give thanks and praises. Jaja love my brother is greater than sea. I can feel his powers, my sister and majesty when I look around and see. Jaja people unite, Jaja people, and see Jaja children living together as one. Alright, yeah. Come, my brothers and sisters, come to Jaja, yeah. Lift up your hands and give God some praise to Rastafari. Come, my brothers and sisters, come to Jaja, yeah. Lift up your hands and give thanks and praises. Yes, sir. I and I will fight, but give thanks and praise to the Most High. Yeah, that's the for right. Yeah. I and I chant his name from the rising of the sun until the going on of the sun. Hey, yo, Momo! Senta, Bonomo Original, Giovanni Killa, che ha solamente per Fire Upon Babylon, sin. Big up Otello, che è Towali, big up Pietro, che è Osh. Yes, Emanuele, che è Smash. Hey, yo, Momo! Senta Bonomo Original, Giovanni Killa, che ha solamente per Fire Pom Babylon, sin. Big up Otello, che è Towali, big up Pietro, che è Osh. Yes, Emanuele, che è Smash, Ilario, e che è Ilario. Yamu mo! Senta Bonomo Original, Giovanni Killa, che ha... Na na na na na na na na na na. Senta mostra combinazione speciale. Na na na na na na na na na na. Giomamo cucchi la chiata. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Brucia quando staci ma se mettia. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Faia bomba bellon bombo clas. Vieni alla danza Kuzmash per sentire la buona vibra che da Ilario arriva e la potenza della musica che nessuno mi limita. Ogni giorno a mia mi stuzzica la voglia di cantare e ballare, esporre la mia lirica. Mo yamu, mo yamu, ve ne canisce l'amo. L'alba aspettamo, ve ne canisce l'amo. Senta Bonomo Original, Fire Pom Babylon Champion Soul. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Brucia quando staci ma se mettia. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Fai a bomba bellon bombo clas. Boom! Ogni guagliuna chi towa li senta. Ci piglia buono tutto e tutto quanto fomenta. Pur ogni femmina rimana contenta. Ho sciabato cuffata tu come palanca. Sì, sta musica ci è piaciuta. Come l'amo sentita subito poi l'abbiamo amata. Poco dopo l'abbiamo conosciuta e imparata. Capita e rispettata. Tanto corona o super sempre conservata. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Brucia quando staci ma se mettia. Fuoco brucia quando fai a domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Fai a bomba bellon bombo clas. E adesso vi lascio con Otello e l'intervista a Big Simon direttamente da Cricca Reggae per la presentazione di un nuovo riddim. State all'ascolto di Port Royal dalle 21 alle 23 ogni mercoledì direttamente da Fire Pom Babylon Crew. Riprendiamo con le interviste, questa volta intervistiamo Simone Big Simon, storico singer della Cricca Reggae, per presentare l'ultima uscita della sua etichetta Beats Records, 7 pollici, con su Earthbeat Riddim in collaborazione con Philo Music e un feat con il Bionic DJ Ranking Joe. Come nascono le tue collaborazioni con Frank di Philo Music e con Ranking Joe? La collaborazione con Frank Filograna di Philo Music Records è nata in maniera del tutto spontanea ed è stata fortemente voluta da me. Ed il collante, la grande passione che ci lega a quelle sonorità di musica reggae tipiche degli anni 90, o meglio di fine anni 90. Potrei citarti un sacco di etichette come la, in questo caso secondo me è molto diciamo ispirato a quelle sonorità legate all'etichetta Exterminator di Fatis Barrel. Infatti io lo chiamo Frank Barrel Filograna perché lui è proprio un fanatico di questa etichetta e di Fatis Barrel, insomma questo produttore qui. Quindi io c'avevo un'idea, mi sono messo in studio, ho sviluppato quest'idea, gli ho mandato una linea vocale con un testo, una piccola demo, lui mi ha creato la base ed è nata la magia, diciamo, di questa song che a me piace veramente tanto, che si chiama One Song a Day. Lui ha fatto Earthbeat Riddim per Bix Records. Subito dopo c'è stata questa sorpresa perché è arrivata in maniera del tutto inaspettata. Insomma, io quando mi cimento nel fare brani in inglese, insomma, non è facile, quindi quando faccio queste cose qui cerco feedback, impressioni, da parte dei miei amici artisti italiani, internazionali, Soundboy, a cui mando questi demo per capire se funziona o meno, perché cantare in inglese, ripeto, è molto bello e stimolante per me, è proprio una mia fissa, mi piace tantissimo, però nello stesso tempo non è facile, pur ascoltando musica in inglese, in patua, trovare quella credibilità nell'esprimersi in una lingua diversa dalla mia, insomma, è una continua sfida per me, quindi spesso mando demo e idee agli artisti, soprattutto internazionali, per capire se funziona. Gliel'ho mandata a Ranking Joe, che è un amico, ci sentiamo spesso, abbiamo collaborato svariate volte per business legati ai dubplate, insomma io ho anche un dubplate service studio, quindi lo conoscevo già, però ci sentiamo anche così in maniera amichevole, non solo per fare business ovviamente, poi ben venga tutto. E niente, lui è rimasto molto colpito, mi ha chiamato dopo due minuti, ha detto: sai man, la song è wicked, no? Your song mad, I want voice pan it, the rhythm too. So, quindi gli è piaciuto molto il rhythm, gli è piaciuta molto la mia canzone, ho avuto l'idea di creare un side B, gli ho proposto questa cosa qui, facciamo una DJ version della mia canzone, io faccio il ritornello, tu fai le strofe, DJ pan it, e quindi niente, è nata Reggae Music Addict. Per me è un grandissimo onore, una grandissima soddisfazione ed è un sogno che si avvera, collaborare con i miei eroi, con i miei beniamini, diciamo, della musica, con gli artisti che ci hanno fatto innamorare della musica reggae. Quindi niente, big up Ranking Joe, big up Frank Filograna. Questi due anni appena passati in cui siamo stati un po' forzatamente bloccati, come è cambiata, come hanno inciso questi due anni sulla Biggs Records? Biggs Records è un altro mio sogno che si avvera, un pallino, uno sfizio che mi sono tolto nel 2018 con la prima pubblicazione ufficiale che si chiama Gioia Infinita, una canzone cantata da me e da Marina, che saluto, che vede anche la collaborazione di Gabriele Billiman di Rupa Rupa Records, uno dei produttori più validi in Italia per quanto mi riguarda. Dopodiché c'è stata questa triste novità della pandemia che ci ha bloccati tutti e non ci ha dato modo di esprimere la nostra arte come avevamo sempre fatto, di andare in giro, di fare tour, di fare live, e quindi niente, l'unica cosa che rimaneva a fare era quella di stare in studio rinchiusi, soprattutto quando ci avevano poi rinchiuso veramente con i vari lockdown, insomma, piuttosto che piangermi addosso ho cercato di sfruttare questo periodo qua per essere più produttivo del solito, per creare, buttare giù idee, scrivere testi, quindi questo ho fatto, ho ripreso il mio progetto di Biggs Records, a parte tutti gli altri, se si può dire, alla grande, quindi da qui in questi due anni è nato Heartbeat Rhythm, ma sono nati diversi progetti che piano piano farò uscire e quindi ne vedrete delle belle, insomma, piuttosto che fare l'opinionista, il dottore, lo scienziato su Facebook, ho cercato di fare quello che più mi riesce fare e che mi piace fare, ossia creare musica ed essere produttivo. E andiamo a sentire anche il secondo brano, l'altra side del disco, del 7 pollici Heartbeat Rhythm, questa volta la combo tra Big Simon e il Bionic DJ Ranking Joe, questa è Reggae Music Addict. No one can stop this feeling. Music is life. One song a day keeps the evil away. This is the cure to all my pains. Reggae music is good for my brain. It keeps me alive. Music makes me feel so fine. just like the sun when it start to rise. And the sunshine gives me peace of mind. Is the thing that brings me joy and peace. It makes me feel better in times I need a lift. The bass is my backbone, the drum is my heartbeat, the keyboard and the guitar make the melody. When the music hits, I feel no pain, takes me far away to a much better place. Take this natural medicine as my daily therapy. Reggae music make me feel irate. One song a day keeps the evil away. This is the cure to all my pains. Reggae music is good for my brain. It keeps me alive. Music makes me feel so fine. Just like the sun when it starts to rise. And the sunshine gives me peace of mind. Oh, you could fight this feeling. Lyrics are my teaching, they are the key to knowledge. Music is the weapon that awakens my conscience. Love is my guide, passion is my motivation to stay away from troubles, from any frustration. Let the music take control, it's the healing of your mind and soul. So let the music take control, I need it more and more. One song a day keeps the evil away. Is the cure to all my pains. Reggae music is good for my brain. It keeps me alive. Music makes me feel so fine. Just like the sun when it starts to rise. And the sunshine gives me peace of mind. Music is the healing. Music is the thing that brings me joy and peace. It makes me feel better in times I need a lift. The bass is my backbone, the drum is my heartbeat, the keyboard and the guitar, they make the melody. When the music hits, me feel no pain, takes me far away to a much better place. Making music every day is my daily therapy. Music is the healing. Reggae music is the healing. Music is the healing. Puoi parlarci dei futuri progetti, delle varie tune che andremo a scoprire nei prossimi mesi, sempre da Bix Records? Il prossimo progetto sarà il mio primo album, finalmente. Il mio primo album da solista, prodotto da Rupa Rupa Records e Biggest Records. È un album totalmente cantato in inglese e patua. Big Up Yourself Gabriel di Billy Man di Rupa Rupa, che mi ha sempre sostenuto, supportato e creduto in questo progetto fin dal primo momento in cui gliel'ho presentato. Lui ha curato la parte artistica assieme a me, la parte tecnica per quanto riguarda i mix e i mastering, ha partecipato come producer anche lui all'interno dell'album, creando quattro basi per il mio album. Il resto sono tutte basi create da altri produttori, come dicevo, da tutto il mondo, dalla Francia, dal Brasile, dalla Giamaica. È un progetto molto ambizioso, lungo, ben 15 tracce. Uscirà presto in formato digitale, in CD, e stamperemo due vinili con quattro tracce dell'album. Il progetto vede la collaborazione di svariati artist, big artist, che non vi svelo, ma anche di producer, come ho appena detto, e di musicisti da tutto il mondo, quindi soprattutto dalla Giamaica, ovviamente. Quindi non vedo veramente l'ora di farvelo ascoltare, perché ci sto lavorando da più di 4 anni a questo progetto qui, e finalmente uscirà. Poi, per quanto riguarda Biggest Records nello specifico, ho un altro rhythm pronto con ben 10 tracce. Il rhythm si chiama Robadop Corner, inclusa anche la mia di traccia, di song. Sono tutti artisti internazionali. Uscirà anche questo in digitale, ovviamente, in 45 giri, 7 pollici vinile. Che dirvi, sto attualmente lavorando su un altro progetto, quindi non mi fermo più, non mi sto fermando dato che di tempo a disposizione ce n'è, faccio questo, quindi non vedo l'ora di farvi ascoltare tutto quello che ho in serbo per voi, quello che sto creando, tutti i miei lavori. Big things a one, ne vedrete delle belle, eh? Ciao Smino. A cosa ti ispiri o a chi ti ispiri quando ricerchi i tuoi beat? Quali sono, insomma, le sensazioni che ti spingono a creare la tua musica e la musica di Biggs Records? La mia ispirazione è molto legata nel creare, nel produrre, nel fare delle robe nuove al mio gusto personale, alla mia identità, al mio modo di esprimermi fondamentalmente nel cantare e nel produrre roba. Cioè, la sfida è proprio quella, fare delle cose che possano piacere agli altri, ma che in primis piacciono a me, altrimenti risulterebbero, diciamo, tra virgolette, forzate. Il punto di forza è proprio quello, cioè cercare di fare la propria musica senza forzature, senza vincoli, senza paletti, senza adeguarsi necessariamente a quelle che sono le nuove tendenze del mercato musicale. In questo modo qui riesco ad esprimere appieno quello che è il mio gusto, quello che è il mio stile, che negli anni ho consolidato, credo, insomma, sempre più fondamentalmente in quello che sono, in quello che faccio, in quella che è la mia identità. E andiamo a sentire anche il secondo brano, l'altra side del disco, del 7 pollici Heartbeat Rhythm, questa volta la combo tra Big Simon e il Bionic DJ Ranking Joe. Questa è Reggae Music Addict. Brand new look at this because people dip and flip and dip and flip. I'm looking brand new from a cocoa basket. I'm out for Big Simon and I bang little ranking Joe live and they're gonna control to one. Do baba day. One song a day keeps the evil away. Hear what a man say. It's the cure to all my pain. Do baba do me do me. Reggae music is good for my brain. Yeah, yeah, yeah. It keeps me alive. Music makes me feel so fine. Team out. Just like the sun when it starts to rise. Yeah. And the sunshine gives me peace of mind. Rise and shine and you play reggae music. Rise and shine and you dance to reggae music. I'm a haddock. Wow. A reggae music addict. Bang diddling diddling diddling. I'm a haddock. Wow. Strictly reggae music. Bang diddling diddling diddling diddling diddling. I be say one song a day keep the devil away. But a strictly reggae music, I'm on just a play. Do babble do babble day. You better hear what Big Simon say. Wow. One song a day keeps the evil away. Hear what the man this say. Is the cure to all. Yeah, you know. Reggae music is good for my brain. It keeps me alive. Music makes me feel so fine. Just like the sun when it start to rise. And the sunshine gives me peace of mind. I'm an addict. A reggae music addict. Bang diddling diddling diddling diddling. Reggae music na me DNA. Reggae music na me DNA. Reggae music it on me life. Me never really choose no gun or a knife. Reggae music on me life. Play reggae music me say day and night. Bang diddling diddling. Reggae music on me heartbeat. Reggae music on me heartbeat. One song a day keeps the evil away. This is the cure to all my pain. Hear what the man says. Reggae music is good for my brain. Do it, yeah. It keeps me alive. Music makes me feel so fine. Just like the sun when it starts to rise. And the sunshine gives me peace of mind. Reggae music on me life. Bang diddle ding diddle ding. When reggae music on me life. Me never pick up no gun or a knife. Brrr, me chant the music with me voice. Bang diddle ding diddle ding. Can reggae music on the people's choice. Reggae music make you feel well nice. Boom! It on me heartbeat. Reggae on me heartbeat. Reggae on me DNA. Boom! It on me heartbeat. It on me heartbeat. Reggae on me DNA. Can play reggae music every day. Wow! Play reggae music night and day. Sweet to reggae music. And you could never, never, never, never, never, never, never, we say never refuse it. Cosa ci riserva quindi il futuro per la Bigs Records, ma anche per la tua crew, per la cricca reggae? Il futuro per la Bigs Records è semplicemente quello di, la speranza più che altro, di continuare a fare musica, continuare a collaborare con persone valide, musicisti, producer, tutto quello che gravita attorno alla nostra grande passione, che è la reggae music. Quindi sicuramente usciranno tante cose per la Bigs Records. E la prerogativa, il punto fondamentale proprio della nascita in sé di questo progetto è legato all'aspetto del far uscire musica soprattutto in vinile. Io credo molto nel vinile, sono un grande appassionato e collezionista di musica in vinile, giamaicana, reggae, ma di qualsiasi altro genere. Quindi la speranza e il futuro è quello di fare musica, continuare a produrre cose con la mia etichetta, di portare avanti questo mio progetto a cui tengo molto, e di far uscire musica oltre che in digitale anche in formato vinilico plasticoso, che dir si voglia, perché questo supporto qua ha sempre dato valore e continua a dare valore alle proprie produzioni, alla musica. Per quanto riguarda Cricca Reggae, abbiamo un album quasi completato, adesso stiamo pianificando un po' a livello di tempi le uscite, come muoverci, ma abbiamo un nuovo brano, un nuovo album, scusate, quasi pronto. Stiamo collaborando per la parte tecnica con Ricky Rinaldi, che ci viene a trovare spesso in studio. Stiamo finalizzando tutto il lavoro. Dal punto di vista artistico, Matteo, il nostro chitarrista, ci sta dando una grandissima mano, perché lui è anche un producer, Wise Koala, andatevelo a cercare. Quindi anche con Cricca Reggae presto usciranno cose nuove, belle, particolari, reggae e non. Quindi, Yaman, musically, it's all about music. A presto. Un saluto speciale agli amici di Pirate Radio. Qui è Big Simon che parla. Stay tuned. Grazie a tutti. Ci vediamo presto. Speriamo in giro, sui parchi, non solo negli stereo di casa vostra o nei vostri telefoni o su Spotify. Speriamo di rivederci presto dal vivo tutti. Ciao a tutti. Ehi Marie. Ehi Simon. A che ora ci vediamo? Allo studio stai, registriamo? Già qua sto. La la la la la la la la la la. Saccio cadda e te ciò passa. ora vuo ca facim o cosa bună. Semana tema la candema la zona. Quando mi chiama sto a disposizione. Che iete so sempre pronta sto a disposizione. Infinita, tu sei la mia gioia infinita. Non chiedermi qual è la mia canzone preferita. Per conoscerle tutte non basterebbe una vita. Per conoscerle tutte non basterebbe una vita. No, no, no, no, no, ma non è cangiata. Tanto tempo è passata. Da quando cu due giorni fedeltà n'am giurata. Pur ca n'am ingazzata non ci am mai repensata. E stiamo ancora qua perché non am mai lasata. Sin, lăsa stoc a disposizione. Che te so sempre pronta, stoc a disposizione. Ca che se l'attitudine ca fascia sta cundendo su aglione. Sta relazione da soddisfazione. Ogni appuntamento cu te rio sempre puntuale. Si l'unico in cialla vita ca non faccio mai spittare. Lui legame tra di noi la sai ca è nato speciale. Oh, sì. E di tanto non ha cangiato e rimasto uguale. C'è passo, poi quando tengo il giso de mia. No giro, de basso e tanta ore melodia. Chiudo un occhio e lascio me ne porti a tu way. Amo la complicità che c'è fra te noi. Infinita, tu sei la mia gioia infinita. Non chiedermi qual è la mia canzone preferita. Per conoscerle tutte non basterebbe una vita. Per conoscerle tutte non basterebbe una vita. Tengo un appuntamento, non bozza dice nonna. Dopo studia, scrive, do, rima nuova. Le gire, le rivolte, le cancio posiziona. Faccio qui truca, vuoi senza me conti troppe storie. Mezzi cuso un ritmo come sopra novagnone. Non annoiamo, ma facciamo sempre cosa nuova. A musica che me come una femmina buona. Se me la jette, me la cante, me la suona. Quando me chiama, sto a disposizione. Che jette, sto sempre pronta, sto a disposizione. La la la la la la la la. Ringraziamo Big Simon per questa intervista e ringraziamo anche Talia di Bot Radio che ci ha concesso anche la possibilità di avere Big Simon con noi qui in radio, qui a Port Royal ogni mercoledì dalle 21 alle 23. E adesso si va dritti con Ilario. Siete pronti, ragazzi? Are you ready? Oh yeah. After you made my day, hurts to know you're going away. Seems like my life begins to ruin now that you're departing pretty soon. But what more can I say? Sad to know that you're leaving. Even though it's kinda grieving. Sad to know that you're leaving. But I know that you'll return real soon. Oh, you can send me a postcard. Mail it home to Deuce's Yard. You know what loneliness brings. But I will guide you out in coming in. What more can I say? Yeah. Sad to know that you're leaving. Even though it's kinda grieving.

me straight and right out. Stop you running around, making trouble in the town. Oh, please, don't you rock my boat. Cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my boat. Oh, please, don't you rock my boat. Don't no, rock no. My boat. Cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my I'm boat. I'm telling you that, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I like. Thank you. yourself right on up when you are wrong. One day you'll make it to the top. She said, keep on trying. Ultimi 10 minuti di Port Royal, Oshpon di Mike. Un saluto a tutti gli amici, a tutte le amiche, e un salutone ai fratelli Taueli e a Ilario. They stop you fussing and the fighting brothers. A chain is as strong as its weakest link. Each one is brother's keeper. As a unity is the foundation of survival. Got to let your love come shining through. See, they stop your fussing and the fighting brothers. The time for uniting the sisters. Oh, now, now. Stop the fussing and the fighting, brothers. Now's the time for uniting sisters. Ababa tonight, we love you. Oh, oh, oh, oh. Ababa tonight. Yeah. It's Rastaman's redemption. What a lovely, lovely vibration. When we all can sing our song. Oh, oh, oh, oh. Ababa Tanai, we love you. Oh, oh, oh, oh. Ababa Tanai, we love you. Yeah, yeah. We have a chant and you bring it around. Oh, oh, oh. We are gonna chant and you bring it around that tune. Yeah, sing it. Sha la la la la la la la la la la. Oh, oh, oh, oh. Sha la la la la la la la la la la. Yeah, that I come from Bush Rock with this garment. Yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. and sisters that the ride would be fun up on the water. Judas can treat a problem like a lifeless bug. We need to talk about it, talk about it, 'cause the problem can't be solved if we push it under the rug. Oh, let's talk about it, talk about it. Never see smoke without fire. Can't swim if there's no water. What goes up must come down. What goes around comes around. Follow the sound. Say me now, forget me roots. Now forget me roots. Won't forget me roots. I'll never forget me roots. Oh no, Congo, no Congo. Say me now, forget me roots. Now forget me roots. Won't forget me roots. I'll never forget me roots. A Dabba Dabba exclusive. Fire from Babylon. Big up Otello. Big up Bosch. Romana Massive. Humbokla. Ring the alarm. Another sound is dying. Ring the alarm. Fire from Babylon is running. Lasciamo pop pop pop. La forza di sta musica non scorre nelle vene, sai. Più forte delle bombe lo stusano. Si diffonde non si ferma mai. La forza di sta musica non si può fermare mai. Non guarda il colore della pelle, ma il cuore mira dritto, sai. Sto mondo togliendo pare tutto con manna. Nulla forza di sta musica ci salva. Ne dona coraggio e spirito per tenere alta la fiamma. Ed è sta musica che ci mantiene a galla. Ne riempio ogni minuto, ogni giornata che passa. Guarisce ogni sconfitta e amaro che lassa. Nulla forza di sta musica ci salva. Ed è sta musica che ci mantiene a galla. La forza dagli umori si sbriciona ogni mattina. Te cieca come il sole, te si toglie la fatica. Vai a Boom Babylon tutta la loro vita. Immagina ogni cosa come fosse una ferita. A me sai, mi sembra facile agli innanzi su suo mondo. Qua invece chi non veste prato oppure non ha un conto. Si sente un diverso tra la gente che c'è attorno. A noi altri basta poco e stiamo bene con un sogno. La forza di sta musica non scorre nelle vene. Ne sai, più forte delle bombe, mostro sound, si diffonde, non si ferma mai. La forza di sta musica non si può fermare mai. Non guarda il colore della pelle, ma il cuore vira dritto, sai. Buono con sta musica che scorre nelle vene. Piotello e Peroscia, questo quello che gli appartiene. Appena si rizzano ogni mattina cliccano sulla rete. Per loro è una fede. Via Bonu, quando Osce seleziona, Bonu, quando Dello seleziona, Bonu, e via Bonu a tutta Roma, Bonu, yeah, yeah. La forza di sta musica non scorre nelle vene, sai. Più forte delle bombe, questo sound si diffonde, non si ferma mai. La forza di sta musica non si può fermare mai. Non guarda il colore della pelle, ma